Ieri di ritorno dalla radio mi sono messo d'impegno per distrarmi. Ci avete mai provato? Mettersi d'impegno per distrarsi non è una cosa facile, perché distrarsi è un'attività collaterale. È quello che accade mentre tu fai di tutto per non farla accadere. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 e... mercoledì 11 maggio 2011, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Rafael Nadal è un giocatore di tennis. Rafa Nadal è il numero uno al mondo, anche se ha da poco in realtà perso una finale molto importante. Ha 25 anni, è destro ma gioca mancino. Rafa Nadal è un mostro del tennis, ma anche lui usa delle piccole tecniche per concentrarsi. Prima di ogni battuta, cioè prima di lanciare la palla in aria e battere a 200 km all'ora nel campo avversario, Nadal esegue un piccolo rito. Prima si aggiusta l'elastico delle mutande sul sedere. Poi si sistema i ciuffi dei capelli dietro le orecchie e si asciuga una guancia contro la spalla. A quel punto, serve. Ma solo dopo aver eseguito tutto questo rituale, è pronto per mettere in gioco la palla. Questo gesto non è che gli assicuri di vincere, cioè non gli dà la certezza di battere perfettamente. E non è neanche un rituale scaramantico. È solo un modo per immergersi in quella cosa lì e dire «Ok, ora sono pronto». Io ho sempre avuto un po' di problemi a concentrarmi. Quando studiavo, ma anche quando giocavo a tennis, ad esempio. Oppure quando devo mettermi a lavorare su qualsiasi cosa. E non ho sviluppato una tecnica precisa. Però, più di una volta, ho cercato di elaborarne una diversa, una adatta a quel momento lì. Prima di mettermi a studiare, per un certo periodo di tempo, mi stancavo, per circa 20 minuti. Facevo flessioni, oppure andavo a correre. Ecco, quando ero esausto, mi sedevo e cominciavo a leggere. Prima di andare in scena, quando facevo l'attore, insieme agli altri, ci mettevamo sul palco e facevamo una specie di training, che cambiava di volta in volta, di spettacolo in spettacolo, ma che, in sostanza, era un modo per staccare con quello che era successo durante il giorno e stare con la testa solo lì. Ognuno di noi, però, sviluppa il proprio metodo. Per concentrarsi. C'è chi prende 4 caffè, chi usa metodi scoperti da guru americani o chi usa l'autoipnosi. Alcuni invece hanno piccoli riti per iniziare, riti che servono proprio a quella cosa lì, ad aiutare la concentrazione. Qualsiasi sia il vostro metodo per concentrarvi, io sono qui. Io sono qui e se volete raccontarmelo c'è il solito numero, che è il numero verde, è 800240024 oppure 349-238-6666 per mandare un sms. Oggi è mercoledì 11 maggio, questo significa che domani è giovedì 12. Domani, giovedì 12 maggio, comincia il Salone del Libro di Torino e Radio 24 comincia a trasmettere dal Salone del Libro di Torino. Prima di noi ci sono altri programmi, adesso non sto a dirvi quali, anche perché sbaglierei sicuramente. Sicuramente però alle 16 domani, dal padiglione 2 allo stand di Radio 24, noi siamo lì, ci sono un sacco di posti a sedere, ci sono un sacco di posti in piedi, puntata del tutto speciale domani, che non vuol dire assolutamente niente, perché per forza non sei in studio, sei là, è una puntata speciale, però tutti quelli che arriveranno al Salone del Libro avranno dovranno venirci incontro, diciamo, dovranno compilare una piccola scheda che gli lasciamo e in questo modo partecipare alla puntata di domani. Domani la puntata è dedicata al mio racconto che mi racconto, e io ne approfitto per ringraziarvi, visto che continuano ad arrivare i vostri racconti. Io sono qui, @radio24.it per inviarli, oppure anche potete usare anche Facebook se volete, potete mandarmeli sul profilo Facebook alla pagina Matteo Caccia, io sono qui. 800240024 349-238-6666. Giustamente mi suggeriscono dalla regia che tutti quelli che hanno intenzione di venire domani per la diretta possono venire, anzi è meglio se vengono un po' prima, se vengono una mezz'oretta prima, in modo che scaldiamo il pubblico. Niente, questa scaldiamo il pubblico mi è venuta ieri, Rudy, scusami, non riesco, insomma, facciamo 4 chiacchiere prima, perché nella puntata di domani c'entrate anche voi che state lì al padiglione 2, allo stand di Radio 24. Torniamo invece alla puntata di oggi, perché la puntata di oggi è dedicata a quella cosa lì, a quella cosa che si chiama distrazione, che è una cosa contro la quale di solito si lavora, e ieri invece cercavo di seguirla, ma questo è un altro paio di maniche. Nicoletta mi scrive: per concentrarmi il mio metodo è avere un rumore di sottofondo, tipo la stufetta d'inverno o il ventilatore d'estate. Damiano fa lo stesso: mi concentro con il suono del ventilatore o del phon, e qui torna il phon, un po' come una grande madre nel cui ventre ci sentiamo caldi e protetti. Mi serve per rilassarmi e per concentrarmi. Studio meglio e riesco a distogliermi dai rumori di casa. Valeria, guaranà, appena sveglia, poi studio con la musica. Irena, sono 10 anni che uso le tecniche di dinamica mentale. Non solo per la concentrazione, ma per tutto quello che faccio durante il giorno. Cos'è la dinamica mentale? Nessuno lo sa, ma d'altra parte, un po' anche chi se ne frega. Iole, io non ci riesco, mi distrae anche il respiro. E a proposito di respiro, Luca scrive: io mi concentro sul respiro, che alla fine è l'unica cosa a cui non pensi mai, dato che si respira fin da subito. Ma ascoltare il proprio respiro, consapevoli di come aumenta o diminuisce in base alle circostanze, una volta consapevoli di esso, si deve tentare sempre ad averlo regolare, lento, pieno e costante. Questa è un'ottima tecnica per concentrarsi. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Un'ultima cosa sul salone del libro. L'ingresso è gratuito. Non è gratuito l'ingresso al salone del libro. Costa 10 euro. Costa 10 euro l'ingresso? Davvero? Non è un po' tantino 10 euro per... No? No, tutti i libri che puoi comprare dentro, infatti, ha voglia. 10. C'hai lo sconto sui libri. 10 euro. A me sembrano tanti 10 euro, però no, non sono tanti 10 euro, puoi starci dentro tutto il giorno, tra l'altro, puoi girare dove vuoi, 10 euro per il salone del libro, alla fine non è così tanto, poi vedi tutti gli scrittori, ci sono tutti gli incontri, un vero mai più senza, con 10 euro vi portate a casa un pacchetto cultura, ragazzi, che fa un baffo a 10 euro per il salone del libro, domani alle 16 in diretta Radio 24... Quindi, però aspetta un secondo, cioè se io gli chiedo di venire a domani alle 16, è come se gli chiedessi di pagare 10 euro, giusto? Va bene, allora 10 euro per la puntata di domani, ore 16, Salone del Libro, Padiglione 2, stand di Radio 24. Poi potete fare un sacco di altre cose, però venite anche mezz'ora prima. Parliamo di concentrazione oggi, e quindi è meglio rimanere focalizzati, 80024 0024. Parliamo di concentrazione per questo motivo qui. Provateci voi ad avere pezzi di vita di persone sconosciute in casa, appoggiate su un tavolo, e imporvi di non leggerle. Io in questi giorni ci sto provando, giuro che ci sto provando, però faccio una gran fatica a non leggere quelle storie. Ieri di ritorno dalla radio mi sono messo d'impegno per distrarmi, non so se ci avete mai provato. Mettersi d'impegno per distrarsi non è una cosa facile, perché distrarsi è un'attività collaterale. È quello che accade mentre tu fai di tutto per non farlo accadere. Funziona al contrario, funziona che tu devi fare una cosa e non ci riesci perché ti distrai. Quando facevo l'università, ricordo che la distrazione era diventata un'arte e come tale quindi andava molto ben affinata. Se avevo un libro davanti, la cosa più semplice da fare era accendere la radio, la TV oppure leggere il giornale o fare una telefonata o mandare un SMS. Fortunatamente internet era agli albori, quindi non avevo la connessione. Poi però ho capito che potevo distrarmi in maniera utile, tipo lavando i piatti, ad esempio, quelli lasciati lì da giorni, oppure pulendo il bagno, che essendo 3 maschi nell'appartamento nessuno lo faceva mai. Passavo l'aspirapolvere, lavavo i pavimenti, rifacevo i letti. A volte facevo pure un bel cambio di stagione fuori stagione. Insomma, la casa alla fine sembrava uscita da una pubblicità del Mastro Lindo, ma di studiare manco l'ombra. Poi, passato quel periodo, ho iniziato a lottare contro altre distrazioni e mi sono convinto che quella fosse una lotta impari, quella tra me e lei. Ieri mi sono accorto che stavo perdendo di nuovo, solo che questa non era quella partita là, questa era un'altra partita, era la partita di ritorno. Non era più concentrazione contro distrazione, era il contrario. Solo che questa volta la distrazione giocava in casa ed era sotto di almeno 2 gol. Sembrava impossibile recuperare. Il faldone delle storie dei pazienti del dottor Salvati mi guardava dal tavolino davanti al divano e io, per distrarmi, mi sono messo a fare una ricerca sulla concentrazione. E ho trovato questo. Ho trovato che la nostra concentrazione è limitata, quindi è inutile, se non controproducente, continuare a studiare o a concentrarsi quando il cervello non lo recepisce più. Piuttosto è bene sapere che da studi fatti il livello di concentrazione può mantenersi dai 20 ai 40 minuti, poi il cervello tende a non recepire più al meglio. Quindi bisogna imparare a sfruttare al massimo questi tempi, non studiare mai meno di 20 minuti e non smettere prima dei 40. Superati i 40 bisogna prendersi all'incirca 10 minuti di pausa, nei quali permettere al cervello di riposare e svagare su altri argomenti. Dopo questo recupero bisogna riprendere senza superare i 10 minuti e in automatico si sarà permesso un ciclo naturale di apprendimento, di stimolazione della memoria. In quei 10 minuti lì però bisogna evitare assolutamente di fare attività collegate a quanto si sta apprendendo, altrimenti non si consente al cervello di distrarsi. Evitare però di vedere la TV e iniziare attività che possano durare più del tempo di riposo. Se si è costanti con l'allenamento e l'utilizzo di questa tecnica, si riuscirà ad aumentare i livelli di attenzione e si diventerà più veloci nel recuperare e nel riposo. Ecco, io ho provato per circa 10 minuti a distrarmi dal faldone. Poi ho deciso che il tentativo era decisamente vano e l'unica cosa da fare era concentrarsi su quello da cui volevo distrarmi. Ho aperto il faldone e l'ho sfogliato. Mi sono fermato sulla storia di Barbara, il nome è finto ovviamente. Si intitolava così: Il bigliettino dei biscotti. And I'll be blindly trusting you because I'm not the only one that you desire. And I want you no harm, I want you no harm. I'll make up all your wishes come real true. Come here and hold me, we will love each other for 100 million years. You and I will never fall. Il bigliettino dei biscotti. Per molti anni i miei genitori hanno conservato un bigliettino trovato in un biscotto della fortuna, uno di quei cartigli in cui un tempo si avvolgevano i dolci. Il testo diceva così: tu e tua moglie vivrete una vita felice insieme. Lo tenevano in una fotografia, incorniciata, nella quale apparivano sorridenti su una spiaggia della Corsica. Mi è sempre piaciuto guardare quella fotografia e leggere quel bigliettino. Mi dava un senso di stabilità. Era come se i miei volessero far sapere a chiunque si desse la pena di guardare che loro erano felici e che progettavano di darsi da fare per rimanere tali. Hanno avuto un meraviglioso matrimonio, durato 26 anni. Naturalmente hanno passato momenti belli, momenti brutti, come tutti, ma sono sempre riusciti a darsi sostegno a vicenda e a vivere nel modo che desideravano. Secondo me, al mondo non si può chiedere molto di più. Quando mia madre aveva 50 anni, le fu diagnosticato un tumore alla lingua, non facile da curare. Un intervento chirurgico le avrebbe tolto la possibilità di parlare, costringendola a nutrirsi con un tubo per il resto della vita. Optò per una terapia a base di radiazioni, ma non andò bene. Ad un anno dalla diagnosi, la malattia si ripresentò, ma questa volta non poterono operarla. Con il sostegno di mio padre, interruppe ogni terapia e tornò a casa. Io e mio marito ci sposammo in quel periodo così travagliato. Ci stabilimmo dai miei per aiutare mio padre e stare con mia madre. 5 settimane dopo il mio matrimonio, mia madre morì nella sua casa, attorniata dalla famiglia. Mentre scrivo queste frasi, sto piangendo. L'indomani uscimmo a mangiare con tutti i parenti. Nessuno se la sentiva di cucinare per una grande riunione familiare. Mio padre scelse un ristorante vietnamita. Mangiammo parlando di mia madre e scambiandoci ricordi della sua vita. Furono momenti dolci e sofferenti. Le avevamo voluto tutti molto bene, ma al contempo eravamo contenti che non patisse più. Dopo cena, aprimmo i biscotti della fortuna. Il biglietto del biscotto di mio marito diceva così: tu e tua moglie vivrete una vita felice insieme. Quando l'ho letto io mi sono messa a ridere. Mio padre si è commosso in silenzio come fa sempre e mio marito mi ha abbracciata. Non ho pensato alle coincidenze, non ho pensato nemmeno in qualche messaggio dell'aldilà da parte di mia madre. Ho fatto finta di niente per non dargli troppo peso. Il biscotto era buono, anche se era un po' stantio. Quando siamo tornati a casa ci siamo spogliati e siamo andati a letto. Per qualche giorno non ho più trovato il bigliettino. Poi mio marito mi ha fatto trovare una scatola avvolta da un nastro. Conteneva una fotografia incorniciata, nella quale io e lui sorridiamo il giorno delle nostre nozze. E in basso, ben stirato, c'era il bigliettino. Ecco, lo conservo lì. Barbara, Torino, 28 novembre 2010. Baby, baby, baby, baby. 0024 0024 349 238 6666. Questo pezzo è uno pezzo di Small Faces che si chiama I'm Only Dreaming, visto che ogni tanto ci chiedono che sarebbe carino dire i brani. Allora vi dico anche qual era l'altro. Stai lì Rudy, tienila lì, aspetta che la raggiungo, aspetta che ci vado. L'altra era Missing Cat, The House of però magari se dici le canzoni dille bene. The House by the River. Missing Cat è una cantante italiana che ha avuto successo a Berlino. Dico due robe, faccio tipo quelli che dicono le cose, che sanno le cose sui cantanti. Comunque le trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Io sono qui. Nicoletta mi scrive: l'anno scorso ho seguito un seminario di Anthony Robbins sulle tecniche NLP, che essendo Anthony Robbins si dirà NLP probabilmente, Neurolinguistic Program, che aiutano il cervello ad associare situazioni piacevoli all'ottenimento dei risultati, soprattutto con visualizzazioni. A me ha aiutato moltissimo con la motivazione, che è alla base della concentrazione. In 2005 abbiamo camminato sui carboni ardenti, esperienza unica che dimostra le possibilità della nostra volontà. A me viene sempre in mente, come si chiamava quel conduttore di Rai 1 15-20 anni fa che camminò sui carboni ardenti? No, Giugas Casella. Giugas Casella era un comico, era un e non era un comico, ma no, un conduttore, che era un conduttore. Mi querela se dico che è un comico Giugas Casella. No, no, Mino D'Amato. Mino D'Amato, bravo Rudy. Mi viene sempre in mente Mino D'Amato in giacca e cravatta che va oh mamma mamma mamma. E in 2005 hanno camminato sui carboni ardenti, mi dice Nicoletta. Allora, cerchiamo un motivo, una metodologia per concentrarci, ok? E Luisa mi scrive che suo figlio nuota, quindi deve essere un atleta o semplicemente un nuotatore in erba, alle prime armi. Ai blocchi di partenza, stella... Vabbè, ai blocchi di partenza muove le braccia a livello dell'acqua. Sul blocco... mi sa che sto leggendo male. Sul blocco invece mette i pollici negli occhiali e sfrega le lenti fino a consumarle. Però rende. Ciao Luisa. Quando sono concentrato tiro fuori la lingua, scrive Marco. Ma è perché ti concentri a tirarla fuori o perché semplicemente ti distrai? Per concentrarmi accarezzo un gatto. Se non un gatto arriccio i capelli con l'indice. Stefano, questo messaggio avremmo potuto mandarlo io o Tiziano Bonini. Non per il gatto, ma per l'arricciamento dei capelli. Ma c'è invece Sandro che dalla Sardegna fa una cosa che, diciamo, non lo dice in pubblico lui. Pronto Sandro? Sì, pronto Matteo. Ciao Sandro, bene, grazie mille per essere al telefono. Senti, raccontami cosa hai, perché dici, lo so che non è elegante e infatti mi astengo dal farlo in pubblico, ma che cosa fai? Quando sono a caccia di ispirazione mi infilo a sinistra nelle mutande e mentre ravano un pochino con la destra mi gratto la nuca, lo faccio per qualche secondo naturalmente e ci trovo un qualcosa di liberatorio che mi aiuta a trovare ispirazione per il mio lavoro. Che lavoro fai, perdonami Sandro? Faccio ceramiche artistiche. Quindi hai un laboratorio? Sì, ho un laboratorio. Ti ho anche mandato una fotografia con la certo, mia moto in piega da fermo. Ho capito perfettamente chi sei. Senti, questa cosa quindi tu lo fai nel chiuso del tuo laboratorio? Assolutamente, io sono qua da solo, chiuso tutto il giorno. Quindi una anche in questo momento? In questo momento sei lì? No, sì, sono in questo momento, ma non mi sto concentrando. No, che non ti stai concentrando, lo spero. Senti, tu hai una compagna, hai una moglie, hai... Sì, mia moglie. Benissimo, niente, volevo solo sapere questo, quindi va tutto bene. Mi dici, sei della provincia Olbia Tempio o di dove esattamente, Sandro? Tempio Pausania, la metà... Sei di la Tempio Pausania. Assume il massiccio di Limara che dà il nome alla provincia. Benissimo. Sandro, Sandro, ti ringrazio molto. Tu comunque... Grazie a voi. Va bene. Tu comunque stai bene, Sandro? Sì, non hai problemi? Sì, sto benissimo. Hai un sonno sereno la notte? Benissimo. Ti posso assicurare. Benissimo, io ne sono felice. Sandro, buona giornata. Anche per te. Ciao, grazie. Bye. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Io sto qui. Nella foto di oggi siamo nella savana, direi. Ci sono piante dappertutto, c'è proprio la tipica vegetazione da foresta tropicale, pluviale probabilmente. Non lo so, mi dà la sensazione, non sono mai stato in una foresta tropicale, però la sensazione è che di non essere in un bosco della Bassa Padana. Diciamo così. Però c'è un personaggio immerso in questa foresta che non si capisce se semplicemente la foto è scattata dall'alto, magari in salita, e lui sta salendo verso l'obiettivo, oppure è proprio accovacciato nella foresta. Andrea Zucchi, 37 anni, di Pesaro. Ho avuto la fortuna di vedere la foresta tropicale intorno a Batad, un piccolo villaggio nel nord delle Filippine. Qui si vive ancora di quanto offre la natura e le persone sono amichevoli ed ospitali. Vorrei poter tanto rivedere quella gente, semplice, felice, e dire con loro: io sono qui. Ecco, hai visto? Era, diciamo, nella tipica boscaglia della bassa del nord delle Filippine. 800240024 349-238-6666. Stiamo parlando di metodi per concentrarsi. Alcuni, molti mi scrivono: ascoltare la radio a basso volume, ascoltare la radio, fare stretching e ascoltare la radio. Molti ascoltano la radio per concentrarsi. E poi l'avevamo già scoperto che era Mino D'Amato il conduttore, però Marco D'Alessandria mi scrive: era Mino D'Amato che ha camminato sui carboni ardenti, dopo l'esibizione chiamato Mino D'Amianto. Che mancata. È veramente una boiata, però vabbè, mi fa ridere le boiate. Devo assolutamente scarabocchiare su un foglio per non distrarmi, e a volte escono delle cose che dovrebbero essere analizzate da uno psicologo. Francesca, si chiama doodling, da una parola inglese che in doodle sono i disegnini che si fanno sui block note, sui fogli di carta, e quella è una sorta di tecnica che si chiama doodling per l'esattezza. Io mi concentro girando in tondo con la palla al piede. Leonardo, non capisco se questo è un calciatore o uno che proprio scende nel cortile per farlo, oppure è un tredicenne. Per concentrarmi sul lavoro che devo fare uso da sempre lo stesso metodo: fare altro e aspettare il panico dell'ultimo minuto. Questi sono i metodi più semplici, e anche, ma non sono metodi, anzi questo è proprio il caos. Antonio da Livorno invece è un arbitro di calcio e usa un metodo tutto suo. Pronto Antonio? Ciao Matteo, come stai? Io bene, tu come stai? Tutto a posto. Benissimo, a posto. Arbitro di calcio di che categorie? Dunque, io sono un arbitro della WISP, pertanto arbitro partite diciamo over 35, ma a livello amatoriale. Amatoriale. Senti, cosa fai tu prima di iniziare la partita? Dunque, io ho un rituale che mi permette di, come dicevi tu prima di Nadal, sì, di dare uno start, un punto di inizio, no? Sì. Cioè, da quel momento stiamo cominciando l'operazione che stiamo per cominciare, stiamo per verificare tutto quello che dobbiamo fare. E quindi, sì, io devo roteare la palla che ho in mano sei volte verso destra e sei volte verso sinistra. Quello mi permette poi, e quindi la prendo e la devo dare in mano al giocatore che gioca fuori casa. Ma Antonio, scusami, è un gesto scaramantico o ti serve per concentrarti? Perché questo, c'è differenza. Come? C'è differenza, è un gesto scaramantico o ti serve per la concentrazione? Ma in effetti serve a me questa cosa, serve a me per concentrarmi e per dare inizio, come fa Nadal quando fa tutte le operazioni. Sì, insomma, mi sembra di capire che ti piace questo paragone tra Antonio e Nadal. No, no, perché in realtà funziona proprio. Certo. È l'indice di inizio, cioè si dice da qui iniziando un'altra iniziamo. Cosa che non è quella di 20 minuti prima. Antonio, ti ringrazio molto, vieni al Salone del Libro di domani a Torino, buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Cuneo da Tommaso. Pronto Tommaso? Ciao, come stai? Ciao, io sto bene, grazie. Spero anche tu, che sei un ex giocatore di biliardo. Sì, esatto. Ma, ti dico, io, ma professionista, scusami. No, non ero ad altissimo livello, però ho vinto qualche garetta. Sì. E quindi ti dico, io mi concentravo in un modo semplicissimo. Avevo un mantra che ripetevo prima di ogni tiro. Cioè, sempre la stessa cosa. Mi concentravo, dicevo, pensa andare sulla palla, vai al tiro. Insomma, due o tre cose che mi permettevano di stare concentrato almeno anche per due o tre ore. Cosa che invece, sono assolutamente d'accordo con te, essendo invece un ex venditore professionista, quando tu parli con qualcuno, ti può ascoltare al massimo da 20 a 30 minuti, dopo è uguale al discorso di quello che tu dicevi che prima. Certo, che ci si distrae. Scusa Tommaso, però non ho capito bene come facevi a rimanere concentrato per tre ore, cioè ripetevi sempre... Io così mi permetteva di non ascoltare il pubblico, di non vedere l'avversario qualsiasi cosa facesse. Io dicevo, vai sulla palla, pensa dove mettere la tua, pensa, insomma, quelle 3-4 cose che mi ripetevo non ossessivamente, però diciamo che mi permetteva di dare sempre gli stessi tempi. Senti, ma eri un giocatore semiprofessionista? No, era un buon dilettante, diciamo. Ma e c'è pubblico a vedere i dilettanti? Da capo, diciamo che alla sera c'è pubblico, nel senso che magari quando ci sono le finali, magari ci sono 100-200 persone attorno al tavolo, oppure se c'è una piccola tribunetta, tante volte anche 300-400 persone. Ma senti Tommaso, ma le sale da biliardo sono ancora quei postacci loschi e pieni di fumo la cui fama si tramanda da anni? Oppure? Ti hai detto, infatti io ho smesso per quello, tu hai detto una cosa bellissima. Le sale da biliardo adesso sono cambiate moltissime, in quanto ci sono, diciamo, delle sale, non si fuma, diciamo. Vabbè, è diverso. Un tempo invece? però ancora non è cambiata molto la mentalità, che ancora un po', diciamo, il si sta trasformando un po', ancora un po' il gioco da soldi, ancora un po' un fatto, diciamo, perché tu non giocavi a soldi, Tommaso? No, no, io assolutamente no. Ma io ero solo un giocatore da gara, mi sono sempre rifiutato di giocare i soldi perché li ho guadagnati onestamente. E cosa vincevi? E cosa vincevi, scusami? No, vincevo la coppa e magari vincevo anche dei soldi, perché logicamente... Ah, però non scommettevi, ho capito, cioè non scommettevi dei soldi. Io quando giocavo, voglio dire, la partita contro qualcuno, non giocavo i soldi. Ho capito. Perché ti sembrava immorale? No, non immorale, forse facilmente non sono un giocatore d'azzardo. Ah, ok, perfetto. Perché essere giocatore d'azzardo uno lo può essere anche se non è immorale, voglio dire, e fa un po' parte del DNA, secondo me, essere Tommaso, tu sei di Cuneo e non dista tanto da Torino, giusto? No, difatti se riesco domani vengo a trovarti. Bravissimo, Tommaso, buona giornata. Posso dire solo un'ultima cosa? Velocemente. Sì, guarda che devo darti una delusione sui carboni ardenti. Si può camminare chiunque sui carboni ardenti, perché è un fatto solamente chimico. Tu, te lo può spiegare qualsiasi chimico. Tu ci hai camminato? No, però ti faccio un esempio. Quando tu metti la mano nel forno, ti apri il forno e non ti scotti, però se tocchi la pentola ti scotti. Non so se rendo l'idea. Quindi il segreto lì era dare coraggio a qualcuno di attraversare il campo, ma i carboni ardenti, diciamo, una cosa è la temperatura, una cosa è l'apporto di calore. Tommaso, sono sull'oscuro ci può camminare chiunque. Starei ore, ma devo chiudere. Ti ringrazio molto, ti aspetto a Torino domani. Buona giornata. Ciao, grazie. Facciamo in tempo a mandare il pezzo finale o dobbiamo chiudere? Forse non facciamo in tempo, Tiziano. Facciamo in tempo e allora l'ultimo pezzo, il racconto che vi racconta di Luigi. Certe volte mi capita di pensare che probabilmente sarei una persona diversa, magari più sicura, più scanzonata, e invece sono così. Penso che troppa gioia, troppa euforia non siano adatte per formare un carattere. È nella sconfitta, è nella sfiga nera che un uomo mostra le sue vere qualità. Solo così poi sarà finalmente pronto all'incontro con la felicità. Credo che tutto sia cominciato quella domenica. Ora è un ricordo sbiadito, ma era caldo. Inizio dell'estate, maggio, forse giugno. Papà sul divano, io come al solito sul pavimento con i miei pupazzi Lego. Le porte di carta, la pallina di carta argentata. Ricordo che in TV trasmettevano immagini in bianco e nero, una piazza, poca gente, forse con delle bandiere. Poi le immagini diventano più nitide, assumono colore, è il verde di un campo di calcio, e poi c'è del nero e dell'azzurro, un colpo di testa, una lunga chioma nera e io che grido gol. 16 anni dopo ho scoperto che quel gol era di Marco Del Vecchio, era il 5 giugno 1995, l'Inter batte il Padova all'ultima giornata e si guadagna la qualificazione in Coppa UEFA. Avevo 7 anni. È da quel giorno che ogni domenica, grazie a quei colori, mi alleno alle sorprese e alle sofferenze che la vita sa riservare. Perché come recita il vecchio inno nero azzurro, cosa c'è di meglio di una continua sofferenza per arrivare alla vittoria? Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata e grazie soprattutto a Stefano da Bergamo che mi scrive: sto tornando da Tutto Food, costa 50 euro più 15 di parcheggio, come dire 10 al Salone del Libro e niente, vi aspetto domani per chi ascolta come al solito alle 16, per chi è al Salone del Libro di Torino al Padiglione 2 alle 15:30. Domani sono al Salone del Libro, oggi ancora non lo so, e voi dove siete?